Hashtag Autotrasporti. Hashtag Autotrasporti, buon pomeriggio da Andrea Ferro. A Bruxelles tra qualche mese inizierà la discussione sul pacchetto stradale, un insieme di norme e indirizzi ai quali dovranno fare riferimento i paesi dell'Unione in materia di trasporti su strada. Come vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane, 9 paesi, tra i quali l'Italia, hanno già siglato un'intesa, la Road Alliance, per costituire un fronte comune contro il dilagare delle profonde distorsioni che da anni ormai caratterizzano il mercato del lavoro nell'autotrasporto, determinando forme di concorrenza di fatto sleali. Francia e Germania già da tempo hanno introdotto il salario minimo anche per gli autisti delle imprese straniere ed è notizia di pochi giorni fa un provvedimento analogo è scattato anche in Olanda. Al di là degli squilibri del mercato, in ballo ci sono anche la sicurezza stradale e le condizioni di lavoro alle quali sono sottoposti gli autisti. Ecco, oggi proviamo a focalizzare l'attenzione dall'angolo di visuale dei lavoratori e lo facciamo con Roberto Parillo, il presidente del Sindacato Europeo dei Trasporti Stradali, che abbiamo intervistato. Nel mondo dell'autotrasporto il lavoro in Europa ha un valore e forse anche una dignità diversa? Sì, assolutamente, una dignità diversa perché un autista polacco o romeno non riesce a rientrare in casa dopo una settimana, 10 giorni, 15 giorni, un mese, dunque lascia la famiglia là, dorme nel camion, quello che non è, come dire, regolamentato, e dunque sì, la dignità è diversa tra un autista dell'est e un autista dell'ovest. Comunque c'è una differenza anche in termini di valori, di strutture diverse della contribuzione. Sì, una differenza di 1 a 24 è una cosa pazzesca. Dunque non si può andare avanti con questa Europa se non si fa qualche cosa. Ecco, la struttura del guadagno di un autista in Romania, in Lituania, rappresenta un stipendio dichiarato di 300 euro al mese. Tutto il resto, possiamo dirlo così, è nero. E se si guarda in Germania, in Italia, in Francia, il costo non è di 300 euro, è di 1.900-2.000 euro. Ecco la differenza, ecco quello che fa che c'è una concorrenza sleale che si sta veramente dilaguando in Europa. E cosa si può fare? Prima di tutto far rispettare le regole, perché bisogna dirlo, le regole esistono. Il problema è di farle rispettare e dunque lì c'è un gran lavoro da fare. Per esempio tra il Ministero del Trasporto e il Ministero del Lavoro, perché il trasporto concerne il camion, il Ministero del Lavoro l'autista. Bisogna che queste strutture lavorino insieme con il Ministero dell'Interno, con la Polizia, in tutti i paesi europei. Dunque c'è questa voglia di creare questo nuovo sistema e di lavorare insieme, e a livello europeo non bisogna delle nuove leggi, nuovi regolamenti, no, applicare quello che esiste in modo veramente giusto. Ecco. A Verona è iniziato il countdown per Transpotec, il salone dei trasporti e della logistica, che aprirà i battenti dopodomani e li chiuderà sabato. Organizzata da Fiera Milano, la manifestazione costituisce l'appuntamento più importante per gli operatori del settore e quest'anno va in scena in contemporanea con Samoter, la triennale per le macchine per costruzioni, e Asfaltica, dedicata alle tecnologie per pavimentazioni e infrastrutture stradali. Su questa edizione di Transpotec soffiano le correnti benefiche di una ripresa che si sostanzia nei dati di vendita dei veicoli. Gli ultimi a disposizione si riferiscono a gennaio. Secondo ANFIA, che è l'Associazione Nazionale della Filiera Automobilistica, nel corso del primo mese del 2017 sono stati rilasciati 2.232 libretti di circolazione di nuovi autocarri, cioè l'equivalente del 57,6% in più rispetto al dato del gennaio 2016. Bene anche rimorchi e semirimorchi, qui l'incremento è stato del 40%. Va sottolineato che già il 2016 si era chiuso con numeri davvero significativi. Le immatricolazioni degli autocarri avevano fatto registrare un balzo in avanti più 54%, con l'ultimo quadrimestre praticamente da record, più 107%. E va anche detto che questi numeri giungono dopo il crollo verticale delle immatricolazioni registrato tra il 2008 e il 2014. Per intenderci, per recuperare le posizioni ante crisi c'è ancora un po' di strada da fare. Segno più a gennaio anche per i veicoli commerciali. Secondo Unrae la crescita è stata del 3,3% rispetto al gennaio 2016. Anche questo comparto l'anno scorso aveva chiuso col botto, più 49%. A favorire la riscossa del mercato sono stati il superammortamento al 140% e gli incentivi a favore degli investimenti. Transpotech quindi cade in un momento incoraggiante. Sentiamo Domenico Lunghi, direttore della divisione Tech e Industrie di Fiera Milano. In un contesto di questo tipo le aziende dell'autotrasporto sono sicuramente interessate ad avere un appuntamento come Transpotech, dove le aziende che producono tecnologie e soluzioni per questo mondo hanno deciso di partecipare con grande interesse. Abbiamo più di 330 espositori presenti, quindi un 30% in più rispetto all'edizione precedente, e ben 10 case costruttrici che sono presenti con le loro soluzioni tecnologicamente più avanzate, con nuovi mezzi, nuovi allestimenti, con trazioni alternative. Ci sono materiali alternativi per i rimorchi, c'è componentistica avanzata da vedere in un'area specifica. Insomma, ci sono molte situazioni interessanti che possono essere portate all'attenzione di chi verrà a visitare la manifestazione. Diciamo che oltre a queste soluzioni di cui vi parlavo, ci sono poi tutti i sistemi per la gestione delle flotte da remoto. C'è comunque un tema importante, che è quello di come la logistica nel nostro paese possa essere in qualche modo un momento di attenzione per tutti quanti. Il 28 febbraio scade il termine per il pagamento della quota di iscrizione all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori. Per superare alcune difficoltà incontrate sul portale web, il Comitato Centrale ha attuato alcune semplificazioni. La più importante riguarda la casella di posta elettronica dalla quale avviare l'operazione. Da qualche giorno è possibile iscriversi all'Albo anche indicando un indirizzo mail non certificato. È stato inoltre potenziato il servizio di assistenza telefonica. Voltiamo pagina. La media europea si aggira intorno al 10%. In Italia siamo appena sopra lo zero. Stiamo parlando della quota di merci che viaggia lungo i fiumi, una modalità nel segno pieno della sostenibilità e, secondo varie proiezioni, potenzialmente competitiva. L'eloquenza dei numeri indica quanto siamo indietro rispetto agli altri paesi, ma qualcosa ora si sta muovendo. E non può che accadere sul Po, il grande fiume che taglia la pianura padana, il Po che con i suoi canali è stato inserito da Bruxelles tra i 10 corridoi strategici della rete transeuropea dei trasporti. La notizia è che a fine gennaio il grande fiume sarà navigabile da Piacenza sino a Chioggia da imbarcazioni lunghe 100 metri in grado di caricare fino a 1500 tonnellate di merci. Sono infatti in dirittura d'arrivo i lavori per la costruzione della conca di Isola Serafini, l'opera più importante tra quelle realizzate per eliminare i vari colli di bottiglia che di fatto impediscono il passaggio dei natanti. Nel suo complesso il progetto è costato 56 milioni di euro, in parte finanziati dalla stessa Unione Europea. Certo, per creare una rete infrastrutturale e logistica efficiente occorreranno altri quattrini e non pochi, ma come si diceva, questa potrebbe rivelarsi una scelta strategica conveniente, un'ulteriore spinta verso un sistema di trasporti intermodale. Sullo stato di avanzamento degli interventi abbiamo sentito l'ingegnere Ivano Galvani, responsabile del settore navigazione interna di AIPO, l'agenzia interregionale per il Po. La conca di navigazione della nuova conca di Isola Serafini, i lavori sono circa il 77%, siamo vicini all'80%, sono stati ultimati tutti i lavori civili relativi ai calcestruzzi e adesso siamo un po' nel cuore della conca, tutti gli impianti idraulici, meccanici, eccetera, che la faranno funzionare. Quindi noi, in base al programma, i lavori dovrebbero essere completati entro la fine di quest'anno, entro il 2017, quindi entro l'anno potremmo vedere passare la prima imbarcazione. Vuol dire allungare il percorso. Attualmente il sistema idroviario, di cui il Po è l'asse centrale, perché abbiamo il Po, abbiamo il Fissero Taro Canal Bianco, abbiamo l'idrovia ferrarese, vuol dire adesso la navigazione sul Po arriva fino a Cremona. Più in su non ci si poteva andare perché c'era un problema legato all'esistente conca di Isola Serafini, che è andata fuori uso a seguito dell'abbassamento dell'alveo del fiume. Vuol dire, insomma, con la nuova conca andare oltre Cremona, andare verso Piacenza. Con hashtag Autotrasporti oggi mi fermo qui, grazie per l'attenzione, noi ci risentiamo lunedì 13.45 da Andrea Ferro. Buon pomeriggio. Hashtag Autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.